Due. A un tratto, nella taciturnità delle macchine che pareva dormissero in quel riposo festivo pomeridiano, una lieve chiamata telegrafica si intese. Nessuna la udì. Le poche ausiliarie, malinconicamente condannate a venire in ufficio dalle 2:30 alle 9 di sera di Natale, facevano altro. Maria Concetta e Immacolata Sant'Aniello, con le mani in grembo, nascoste sotto il grembiule di ufficio, diceva silenziosamente il rosario. Pasqualina Morra, la poetessa, leggeva un volumettino di versi di Pietro Paolo Parzanese, libro permesso dalla direttrice. Giulietta Scarano scriveva rapidamente sopra un foglio di carta da telegrammi. Adelina Marcò, con le mani ficcate nel manicotto, una piccola pelliccia al collo, sonnecchiava. Annina Caracciolo, la indolente, guardava in aria col suo contegno di distrazione che le risparmiava il lavoro. E le altre, chi dormicchiava, chi chiacchierava sottovoce con la vicina, chi fingeva di non avere inteso per non muoversi. Ma la chiamata risuonò più viva. Veniva da una macchina solitaria in un angolo di tavolino. Concetta Sant'Aniello interruppe un mistero doloroso e disse con un tono di orazione: «Foggia chiama!» Pure non si mosse. Non rendeva servigio a nessuno e non si muoveva mai senza l'ordine della direttrice, con un egoismo placido di beghina scrupolosa. E come le chiamate si facevano sempre più precipitose, le ausiliarie, per dire qualche cosa, per interrompere quel noioso silenzio, per far chiasso, dissero ognuna: «Foggia chiama! Foggia chiama! Foggia chiama! Chi sta a Foggia? Chi risponde a Foggia?» «Zitto, zitto, eccomi qua!» disse Annina Pescara entrando dall'anticamera e correndo alla macchina di Foggia. «È un bel seccante, Foggia!» E si mise a ricevere, tenendo alta con due dita della mano sinistra la striscia di carta e scrivendo il telegramma che era per Napoli sul foglio bianco. Dopo le prime parole, ella chiamò la sua indivisibile amica. «Borrelli, vieni qua!» La Borrelli piegò un giornaletto letterario che stava leggendo di nascosto, La Farfalla, se lo cacciò in tasca, si raddrizzò le lenti sul naso con quel moto istintivo dei miopi e corse dalla sua amica. La Borrelli ora leggeva anch'ella sulla striscia di carta attentamente. «Che imbecille!» esclamò un tratto. «Scusa, mi pare che non sia un imbecille, vuol molto bene a questa sua innamorata», rispose Annina Pescara, offesa nelle sue tendenze sentimentali. «Sì, ma un uomo non si umilia così», ribatté Borrelli facendo la dottoressa. Il telegramma d'amore continuava, era di 59 parole, veniva da casa Calenda ed era diretto a una Maria Talamo in Napoli, alla Riviera di Chiaia. Era un telegramma dolcissimo, l'uomo effondeva il suo amore in quel giorno di festa familiare, dolendosi della solitudine che nulla veniva a confortare, desiderando una parola di affetto dalla persona amata, giurando che nulla lo avrebbe fatto desistere da questo amore, né la guerra degli uomini, né le avversità del destino, né il medesimo disprezzo di lei, donna adorata. Tutto questo era letto da Maria Morra, che era accorsa anche lei, da Peppina Sanna, che passando si era fermata, da Caterina Borrelli e da Annina Pescara, che riceveva sempre. «Quanta retorica!» esclamò la Borrelli. «Questo telegramma viene da casa Calenda?» chiese la De Notaris avvicinandosi. «Sì, sì!» le fu risposto. «Oh, è il solito, ne giunge uno quasi ogni giorno, ne ho ricevuto anch'io», disse la De Notaris. «Questo è quel tale che si dilinguisce sempre», gridò Ida Torelli dal suo posto. «Aspetta, aspetta, che voglio leggere anch'io». Erano aggruppate in 10 attorno alla macchina di Foggia. Annina Pescara, tutta fiera, rizzava la piccola persona sulla poltroncina di tela e, leggendo sulla zona, ripeteva ad alta voce, con tono solenne, quelle parole appassionate. Le ragazze stavano a sentire, tutte intente. Ida Torelli, la scettica, sogghignava. Caterina Borrelli, lo spirito forte, si stringeva nelle spalle, come seccata di tante scioccherie. Ma le altre erano un po' commosse da quella prosa telegrafica incandescente e sottovoce già parlavano dei loro amori più o meno sfortunati. Adelina Marcò, la bellissima, Aveva due o tre pretendenti che ella non poteva soffrire e invece amava un altro impiegato telegrafico, vedovo, con due figli, troppo vecchio per lei, che i suoi genitori non le avrebbero mai lasciato sposare. E si torturava per questo amore, non potendo né parlargli né scrivergli mai. Peppina Sanna pensava al suo bell'ufficiale di marina, dai mustacchi biondi e dai capelli ricciuti, che navigava allora nelle acque del Giappone e che sarebbe tornato solo fra 2 anni. Maria Morra, la filodrammatica, amava fedelmente da 5 anni un impiegato che aspettava sempre un maggiore avanzamento per sposarla e che intanto si consolava recitando insieme con lei La Celeste di Marenco e la farsa Un bagno freddo. Annina Pescara, terminando di ricevere il dispaccio, pensava al suo studente di legge di secondo anno, che ne doveva studiare altri 2 per la laurea, altri 3 per il diploma di procuratore e aspettare altri 4-5 per avere un po' di clientela, o il posto di pretore in qualche paesello della Basilicata. Questi umili, onesti, ferventi amori sgorgavano da quelle anime giovanili in quel giorno di festa che dovevano passare in quello stanzone pieno di macchine, lontane dalla gente che amavano, lontane dai semplici piaceri familiari. Ma subito le discussioni cessarono. La direttrice era venuta dall'altra sala delle macchine dove era stata a conferire col capoturno della sezione maschile. Che è questo attruppamento, signorine? Ai posti, ai posti! Non è permesso lasciare gli apparati. Torelli, vedete? Napoli Chiaia vi sta chiamando e voi siete qui a discorrere. Sanna, avete finito di copiare quel registro che vi ho dato? De notaris, vi è un telegramma per Potenza, datelo. Marco, anche voi imparate a lasciare il posto. Che smania di complottare. Direttrice, era un telegramma, disse Caterina Borrelli con la sua improntitudine. Che telegramma? E toltolo dinanzi ad Annina Pescara, la direttrice lo lesse. Le ausiliarie, che erano ritornate tutte umiliate ai loro posti, la guardavano per leggere sul suo viso monacale l'impressione di quel telegramma amoroso, ma ella non fece atto di nulla e, voltate le spalle, andò a buttare il telegramma nella buca della porta che divideva la sezione maschile dalla femminile. Ritornando, si fermò in mezzo alla stanza e disse severamente: Signorine, ho creduto sempre di essere qui a dirigere un ufficio di fanciulle serie, di impiegate solerti, che dimentichino in questo luogo la storditaggine e l'imprudenza giovanili. Vedo di essermi ingannata, vedo che un nulla, una scempiaggine vi distrae, vi interessa, vi fa abbandonare il lavoro. Se non mettete giudizio, le cose andranno male. Ricordatevi, signorine, che con giuramento avete promesso di non rivelare il segreto telegrafico. Il miglior mezzo è di non interessarvi punto a quello che i privati scrivono nei dispacci. Siamo intese per un'altra volta. Un silenzio profondo. Nessuno osava rispondere. Ella aveva parlato lentamente e senza riscaldarsi, senza guardare in volto a nessuna, con gli occhi abbassati. Ella non era cattiva. Ma sentiva moltissimo la sua responsabilità e tremava continuamente che la sua sezione sfigurasse innanzi ai superiori. Profondo silenzio, penoso. Tutte pensavano, non riprendevano le loro occupazioni come intorpidite. Solo il tasto di De Notaris strideva, trasmettendo a Potenza le parole del dispaccio. «Che ore sono?» domandò la De Notaris. «Le 17:30». Mormorò lieve lieve Clemenza Achard, la sua vicina. E dopo le 17:31, gridò Ida Torelli. Grazie, disse la De Notaris e segnò l'ora sul dispaccio trasmesso, cioè le 5:30. Era notte da mezz'ora, eppure per arrivare alle 9 ci volevano altre 3 ore e mezza. Erano state accese le fiammelle di gas. Ma visto che non vi era lavoro, la direttrice aveva dato ordine che si abbassassero. Il direttore predicava sempre l'economia del gas. Così, in quella penombra, poco si poteva leggere e poco fare l'uncinetto. Le ombre delle macchine si profilavano stranamente sui tavolini con la loro ruota dove si svolgeva la carta, col piccolo braccio mobile di acciaio, con la chiave per dare la corda che pareva l'elsa a croce di una spada. Qualche punto lucido qua e là, la campanella di vetro che proteggeva il piccolo parafulmine, il bottoncino di un tasto, gli orecchini di strass di Olimpia Faraone, gli spilloni di pastiglia nera che Ida Torelli portava nei capelli biondi, silenzio profondo, non potendo né scrivere, né leggere, né ricamare. Le ragazze pensavano: «Che voleva poi Napoli Chiaia da voi, Torelli?» domandò la direttrice dal suo posto. «Oh, niente, direttrice, abbiamo scambiato un niente». «Vi ha parlato dopo?» «Sì, ha detto che era Natale e che si seccava». «Spero che lo avrete messo al silenzio». «Non gli ho risposto, direttrice». «Va bene». La conversazione sulla linea, salvo affari urgenti di ufficio, era severamente proibita. Si era indulgente per i ritardi, per gli errori, per la incapacità, per la conversazione col corrispondente, non mai. Chi parlava e veniva sorpresa sul fatto era punita prima con l'ammonizione, poi con la censura, una pena gravissima. Al corrispondente si faceva una lettera risentita dalla direzione per avvisarlo che non ci ricadesse mai più. Eppure era questo il peccato più frequente, commesso con maggior gusto perché più pericoloso. Difatti, anche in quel silenzio, in quella penombra, pianissimamente, Annina Pescara parlava col corrispondente di Foggia. Costui, dopo aver trasmesso il telegramma amoroso, aveva subito esclamato: «Che moccoletto si regge noi, è vero, signorina?» E Annina Pescara aveva risposto subito che non le dispiaceva di reggere il moccolo, che l'amore era una bellissima cosa. Il corrispondente aveva risposto che l'amore rende infelici tre quarti del genere umano. La discussione sentimentale ferveva sulla linea. Annina Pescara, che indovinava le parole del corrispondente, ha udito col semplicissimo rumore del coltellino che fa i segni. Non aveva bisogno di lasciar correre la carta. Poi, per non far udire le sue risposte in ufficio, dal rumore del tasto, aveva stretta moltissimo la vite del tasto, che così non faceva più chiasso. Immersa nell'ombra, con le spalle appoggiate alla poltroncina, ella pareva dormisse con una manina bianca allungata immobile sul tasto. Le sue amiche, le sue colleghe, vedevano che la parlava con Foggia, per averlo fatto altre volte anch'esse altrove, ma chi avrebbe osato tradirla? Laggiù anche Olimpia Faraone parlava con Reggio, come al solito, ma più imprudente, più inesperta, lasciava correre la carta, strappandola pezzo a pezzo e mettendosela in saccoccia. Da 20 giorni ogni giorno parlava con quel corrispondente calabrese che le aveva già scritto 2 lettere d'amore. I giorni di festa erano fatti apposta per la corrispondenza proibita. Gli impiegati si seccavano nei loro uffici solitari, senza lavoro, e veniva loro la voglia di chiacchierare. Le ragazze si seccavano ugualmente e quel parlare con un ignoto a tanta distanza lusingava la loro fantasia. Questo accadeva chetamente, ma sul volto della peccatrice si leggeva la compiacenza dell'ingannuccio che commetteva. «Pescara?» chiamò la direttrice. «Direttrice!» trabalzò colei spaventata, appoggiando la mano al tasto fortemente per far tacere il corrispondente. «Che, dormite?» «No, direttrice. Domandate a Foggia se ha niente». Annina Pescara sorrise nell'ombra. Dopo un minuto monotamente: «Direttrice, niente con Foggia». Ma Caterina Borrelli, che aveva sempre la malizia in risveglio, disse a Olimpia Faraone: «Faraone, domanda anche tu a Reggio se ha niente». E Faraone, tranquilla, con la voce strascicata: «Sì, va bene con Reggio, non vi è niente». La direttrice non si accorgeva di nulla, scriveva una lettera a una sua compagna di scuola che ora faceva la maestra rurale in un piccolo villaggio del Molise. Le augurava buon capodanno, ricordandole i bei tempi del convitto, dicendole che era contenta del suo posto. Pure la lettera era malinconica. Anche su lei, povera donna, cadeva la stessa tristezza di tutte quelle fanciulle riunite a far nulla in uno stanzone in penombra, innanzi a una macchina silenziosa, nel giorno sacro di Natale, mentre i parenti, i cari, gli amici erano riuniti a pranzo a giocare alla tombola e si preparavano per un ballonzolo familiare. Ella stessa, che non aveva più nessuno, sola al mondo, era presa da una nostalgia della casa, delle persone amate. Levava la testa e guardava tutte quelle ragazze immobili, chi sonnecchiando, chi con la fronte fra le mani, chi discorrendo con la vicina a voce bassa, e non le sgridava più, sentendo la mestizia di quelle lunghe ore fredde scendere su quella gioventù. Non le sgridava. Le nasceva in cuore una pietà profonda di loro e di se medesima. Maria Vitale starnutò due volte. «Salute!» le disse lieve lieve la voce di Clemenza Achard. «Grazie!» e si soffiò fortemente il naso. «Sei qui tu? Neppure t'avevo vista. Non sei dell'altro turno?» «Ho dato il cambio a Serafina Casale, che preferiva venire di mattina, essendo Natale.» E ti sei sacrificata tu? Ma non è un sacrificio. Era una suavissima creatura, magra, bruttina, gracile e timida, che poco sapeva lavorare e che restava sempre in silenzio alle peggiori linee, dotata di una pazienza angelica, non lagnandosi mai, non alzando mai la voce, cercando di eclissarsi quanto più poteva. Rendeva alle sue amiche una quantità di piccoli servigi, naturalmente. Portava un disegno di tappezzeria per pianelle a una, un figurino di mode all'altra, un romanzo alla terza, un pezzo di musica alla quarta. Si sedeva a una linea che andava male, in cambio della compagna nervosa che non ne poteva più. Era sempre pronta a cambiare di turno per una, a restare 2 o 3 ore di più in servizio per un'altra, a cedere financo il suo giorno di festa, che le toccava ogni 2 mesi, a qualcuna che ne la pregava. Ella prestava il suo ombrello e se ne andava sotto la pioggia a casa sua, prestava il suo scialle e tremava di freddo, andandosene. Tutto questo senza pompa, con una dolcezza silenziosa, con una naturalezza affettuosa tale che le compagne finivano per non esserle neanche più riconoscenti, sapevano che bastava dire per ottenere da lei qualunque di questi sacrifici. «Oh, Achard, te ne prego, fammi questo favore!» Ella non resisteva e diceva di sì, subito. Talvolta esse diventavano brutali con lei, che era molto educata. Infatti, Serafina Casale il giorno prima le aveva detto: «Achard, te ne prego, lasciami venire di mattina, domani, è Natale, abbiamo gran pranzo in casa e dopo si va al teatro. Tu certo non vai in nessun posto ed è il Natale, non te ne importa niente, dammi il cambio!» Ebbene, la mite creatura non aveva osato risponderle che il Natale le importava molto e che da un mese pensava di andare a San Carlo quella sera, e aveva fatto il favore a chi glielo chiedeva con poca delicatezza. Quando la direttrice lo aveva saputo, aveva detto: «Povera Shard, voi ne abusate!» Così Clemenza Shard era lì accanto a Maria Vitale, che aveva il naso rosso e lacrimava da un occhio per il forte raffreddore. Maria sfogava un malumore ingenuo, fisico e morale, perché non poteva respirare e perché doveva stare in ufficio di Natale. «Figurati, cara Shard, che ho avuto appena il tempo di ascoltare le tre messe di Natale alla chiesa dei Pellegrini. Poi siamo andate con mamma, mia sorella e Gennarino, dalla comare, donna Carmela, che è panettiera e ha tanti denari. Ci ha dato il caffè, ma che caffè, mi pareva veleno. Questo catarro non mi fa provare più nessun sapore. E poi il pensiero di dover venire in ufficio alle 2:30. Ho pranzato sola all'1:30, sopra un angolo di tavola, un piattino di maccheroni e un pezzetto di stufato. Poi un mostacciuolo che la comare mi aveva regalato. Tutta la famiglia mia avrà pranzato insieme verso le 3:00. Poi sono andati al teatro di giorno, al fondo. Si fa la figlia di Madame Angot. Beati loro che si divertono. Alle 9:00 saranno già a casa e andranno a dormire, e sì che hanno avuto la consolazione di godersi il Natale. Se papà tuo ti viene a prendere alle 9:00, perché non ti fai condurre a teatro? Sì, a quell'ora, con tutta la buona volontà, sono così stanca che ho un solo desiderio: dormire. Oh, Ashard, il lavoro mi è piaciuto sempre, anche per portare a casa quei quattrini, per sollevare papà che ha l'asma dalla soverchia fatica, per confortare mamma che ha perso la salute coi figli. Ma questa è una vita troppo dura. Quando tutti si godono la festa, noi in ufficio. Il Padre Eterno si è riposato il settimo giorno e noi non riposiamo mai. Se cadiamo ammalate e manchiamo all'ufficio, ci trattengono le giornate alla fine del mese, come si fa con le serve. Se manchiamo per volontà, non ci pagano e ci sgridano. Noi non sappiamo più che siano Pasqua, Natale e Carnevale. Ci danno le 84 lire alla fine del mese? E tutto questo lavoro? Niente, niente, questa è la schiavitù. Perché non hai fatto la maestra? Domandò Ashar dopo aver sospirato. Ero troppo stupida, disse Maria chinando il capo. Facevo sempre degli errori di ortografia nel compito di lingua italiana e non capivo l'aritmetica. E che vuoi farci allora? Pazienza ci vuole. O Natale o un altro giorno non è la stessa cosa. Poi chi soffre per un dolore, chi per un altro. Anche tu, povera Shard, avrai dei guai. La matrigna ti tormenta? No, no, disse quella subito, ma con voce tremante. La matrigna è buona. Non hai un fratello militare? Sì, sì, a Pavia. È venuto in permesso? No, non ha potuto averlo. Oh, avrà anche lui fatto il Natale da solo, poverino. È per lui che ti dispiace. Clemenza Shard scosse il capo come per dire di no, ma le lacrime le scendevano per le guance, lente lente, senza singulti. Maria Vitale, vedendola piangere, contristata per sé, per la compagna, affogata dal raffreddore, cominciò a singhiozzare fortemente. «Che avete? Vitale, perché piangete?» domandò la direttrice. «Niente, niente, niente», borbottò quella fra i singhiozzi, lamentandosi, tossendo, soffiandosi il naso. «Come niente? Perché piangete? Dite!» «Piango perché ho il raffreddore! Ecco!» fece l'altra con un dispetto bambinesco. «Fortunata te che non hai altri motivi di piangere!» mormorò Giulietta Scarano. «Sei una fanciullona, Vitale!» intervenne Annina Pescara. «Respira dell'ammoniaca per guarire!» «Ma che? È meglio una buona tazza di tè!» suggerì Peppina Sanna. «Non dare ascolto, Vitale!» gridò Ida Torelli. «Cacciati sotto le coperte e cerca di sudare questa notte e domattina sarai guarita!» «Vitale, non far nulla di questo, figlia mia!» disse Caterina Borelli, ridendo. Vi fu un movimento in ufficio. Napoli Prefettura aveva comunicato una circolare all'ufficio centrale in cui si avvisavano tutti i prefetti e sottoprefetti del regno di sequestrare il numero 358 del giornale La Spira, poiché il suo articolo intitolato Il Monarcato, che cominciava con le parole «sino a quando» e finiva con le parole «in un mare di sangue», conteneva voti contro l'attuale ordine di cose, insultava le istituzioni ed eccitava gli spiriti alla rivolta. Subito le fiammelle del gas furono rialzate, i tasti cominciarono a stridere. Campobasso, Avellino, Cassino, Pozzuoli, Castellammare, Salerno, Caserta, Benevento, Reggio, Catanzaro, Aquila, Foggia, Bari, Bologna, Genova, Venezia, Ancona, Cosenza, Casoria, Potenza, Sora, Otranto. Furono pronti a ricevere la circolare del sequestro. Per 5 o 6 minuti l'ufficio si rianimò. Un fracasso di trasmissione si diffuse per le due stanze come un giocondo rinascere di attività. Indi un minuto di pausa e di silenzio, quindi uno stridio metallico dei coltellini. I corrispondenti che ripetevano tutti a Napoli il numero del telegramma, il titolo del giornale, il suo numero, il titolo dell'articolo, le parole con cui principiava e con cui finiva, insomma le cose più importanti per evitare errori. Qualche voce domandò che ora fosse e fu risposto «Ore 19». Le fiammelle furono riabbassate, le ausiliarie si distesero di nuovo nelle poltroncine, riprendendo il filo del loro discorso o dei loro pensieri. Il corrispondente di Catanzaro aveva subito detto a Maria Morra, dopo il telegramma del sequestro, «Vale la pena di scomodarci per così poco?» «A che scherzate? Chissà che vi sarà in quell'articolo!» aveva risposto Maria Morra. Discussero di politica. Maria Morra odiava i repubblicani, li chiamava straccioni. Il corrispondente era socialista. Il corrispondente di Cassino anche aveva mandato al diavolo il telegramma dicendo a Clemenza Shard che per rispondere presto aveva ingoiato di traverso un bicchierino di rosolio e che ora tossiva come un dannato. Clemenza Shard era tutta confusa, non osando intraprendere una conversazione proibita e temendo di sembrare ineducata al corrispondente se non gli rispondeva. Non sapendo che fare, batté un colpettino sul tasto, un puntino solo, timido timido. E Cassino, visto che la conversazione non attecchiva, si tacque. In quel momento, dalla piazza della Posta, dove già si udivano i primi scoppi di trick-track e delle bombe natalizie, salì alla sezione femminile un lungo, dolcissimo fischio. Peppina De Notaris, malgrado la sua presenza di spirito, arrossì nel suo delicato volto di bruna e tutte le ausiliarie, più o meno, chi trasalì, chi sorrise. La sapevano tutte quell'appassionata leggenda dell'innamorato di Peppina De Notaris. Era un giovanotto bruno e sottile come lei, impiegato al municipio. Adorava Peppina. Restava in ufficio fino alle 5 e se ella era libera nel pomeriggio andava da lei e vi restava fino alle 7, l'ora del suo pranzo. Vi ritornava dopo pranzo subito. Ma quando ella di servizio nel pomeriggio, egli pranzava in fretta e si andava a ficcare nel piccolo caffè della Posta di rimpetto al Palazzo Gravina. Ogni mezz'ora fischiava lungamente, dolcemente, come a dire «Eccomi, sono qui, ti voglio bene». In quel piccolo caffè non vi era mai nessuno e l'innamorato di Peppina, che vi restava 3 o 4 ore, leggeva tutti i giornali, parlava col padrone, col cameriere, si era fatto amico con tutti. D'estate sedeva sulla porta e parlava coi conduttori dei tram che aspettavano i passeggeri per partire per Posillipo. E puntuale, non si dimenticava mai di fischiare ogni mezz'ora, come per dire «Consolati, bella mia, io sono qua, ti voglio bene. Non ho il coraggio di andare a divertirmi mentre tu lavori. Io ti aspetto. Abbi fede, abbi pazienza». La suave leggenda sentimentale circolava nella sezione femminile e il fischio lo aspettavano tutte come se fosse un interesse affettuoso, proprio. Alle 9 Peppina De Notaris era la prima ad andarsene, salutando in fretta. Fuori trovava suo padre che l'aspettava per ricondurla a casa, ma giù, sotto i portici del cortile, per non dare all'occhio, l'innamorato passeggiava. Si scambiavano un buonasera, sottovoce, e se ne andavano in 3, discorrendo piano di quello che era avvenuto il giorno nella sezione femminile e nell'ufficio municipale. Egli non mostrava né impazienza né stanchezza per aver tanto atteso in un caffè solitario a non far nulla. Ella lo guardava con una tenerezza infinita, senza ringraziarlo. «Signorine», avvertì la direttrice, «non dormite, perché a momenti sarà qui il direttore». Quelle che facevano l'uncinetto lo riposero, avvolgendolo in un pezzetto di giornale. Quelle che leggevano chiusero i libri. Pasqualina Mora riportò il volumettino delle poesie di Parzanese alla direttrice che glielo aveva prestato. Ella era la prediletta, perché non parlava, perché non si muoveva dal suo posto e per aver pubblicato dei versi a una viola in una strenna religiosa. Maria Immacolata Concetta Sant'Agnello, detta la bizzocchella per farsi merito, si mise a leggere la Convenzione di Pietroburgo per il Servizio Telegrafico Internazionale. La prima a muoversi dal suo posto per andare dalla direttrice fu Cristina Iuliano. «Direttrice», disse ella piegandosi sulla scrivania e fissandola col suo occhio tondo, bianco e guercio. «Ora che viene il direttore, ditegli che mi faccia andare via mezz'ora prima». «E perché? È Natale, devo andare a ballare». «Andate a una festa?» chiese la direttrice guardando il vestito di Lanetta Bigia, poverissimo, e la sciarpa al collo scarno di ciniglia rossa. «Balliamo a casa mia», rispose l'ausiliaria, «siccome affittiamo stanze a certi studenti». «Beh, quando verrà il direttore glielo dirò». Cristina Iuliano tornò al suo posto dimenando il lungo corpo mascolino. Venne la volta di Caterina Borrelli. Direttrice, ora che viene il direttore, ditegli che vorrei andare via mezz'ora prima. Anche voi ballate? Oh, io devo andare a San Nazaro alla prima rappresentazione della Marini. E che si recita? La Messalina di Cossa? La direttrice aggrottò le sopracciglia. Bene, glielo dirò, soggiunse poi con voce secca. Anche per Annina Pescara? Io non vado in nessun posto senza lei. Oh, mi pare che ne vogliate troppo, Borrelli. Due o tre altre andarono a chiedere questa mezz'ora. Miserabili 30 minuti implorati come una grazia. Adelina Marcò andava a San Carlo. Olimpia Faraone andava a ballare anche lei. La direttrice prometteva di dirlo, di intercedere. Non poteva fare altro. Ma erano troppi i permessi. Tutte quelle che li avevano chiesti ora guardavano continuamente verso la porta donde soleva entrare il direttore. Era un piemontese severo, talvolta duro, che comandava alle telegrafiste come a un plotone di soldati, e la cui collera, fredda e il rigore settentrionale, sgomentava le più audaci. Egli pranzava davvero all'Obrogo, al Vermouth di Torino, in piazza Municipio, e dopo capitava sempre in ufficio per il controllo serale. Entrava sempre di sorpresa, arrivava alle spalle, non salutava che la direttrice, e ronzando attorno ai tavolini delle macchine, vedeva tutti i ritardi, le disattenzioni, le trascuranze, le macchine insudiciate, di inchiostro azzurro stampante, i tasti troppo alti, quelli troppo bassi, i registri maltenuti, i fogli di carta telegrafica disordinati. A bassa voce, guardando bene negli occhi l'ausiliaria, egli faceva in pochissime parole l'osservazione. L'ausiliaria chinava gli occhi, non rispondeva, cercava subito di riparare il proprio errore. Sulle prime qualcuno aveva tentato di scusarsi, ma egli girava sui tacchi, le voltava le spalle e tirava via, come se non avesse udito, non ammettendo per principio che si discutesse con lui. Di giorno, col sole, questo direttore pareva meno terribile, ma di sera, nella penombra, con quegli occhi nerissimi e fieri di inquisitore, con quel suo ronzare fra le macchine, con quella voce cheta cheta che non voleva risposta, con quel suo abbrancare improvviso del registro, del tasto, dei dispacci fermi, egli aveva qualche cosa di fantastico e gli faceva terrore. Di giorno lo chiamavano il Papa per l'infallibilità, lo chiamavano Mammone, che è lo spauracchio dei bimbi napoletani, ma di sera non lo chiamavano che il direttore. E queste quattro sillabe, soffiate più che dette, facevano agghiacciare il sangue, ma giungevano sino a desiderare la sua presenza, almeno per guadagnare mezz'ora. «Vedrai che questa sera il direttore non viene e noi schiatteremo qui sino alle 9», disse Caterina Borrelli ad Annina Pescara. «Dove sarà che non viene? Festeggerà il Natale pranzando con la vice direttrice? Borrelli, sei maligna!» «Che maligna? Si sposano, non lo sai?» Annina Pescara confidò subito la notizia ai Datorelli. La diceria circolò a voce sommessa. La discussione era: la vice direttrice può conservare il suo posto maritandosi? Le ausiliarie, secondo il regolamento, non potevano, ma il regolamento si estendeva alla direttrice e alla vice direttrice. Chi opinava di sì? Chi negava? «Vedrete, vedrete che si marita e resta qui», sostenne Olimpia Faraone. «Ci divertiremo assai fra il marito e la moglie». «Ma che... la vice direttrice è un po' nervosa, ma non è cattiva, lo sapete», disse Peppina Sanna. È buona», soggiunse Caterina Borrelli. «Bisogna conoscerla bene per apprezzarla. Io sono stata nel suo turno e lo so». «Ma non rimarrà qui dopo il matrimonio», disse Peppina De Notaris. «Si farà un concorso fra le migliori per il posto di vice direttrice». «Chi? Chi poteva riuscire? Quale nuova volontà avrebbero dovuto subire? Serafina Casale, forse, superba, sdegnosa, prepotente? O se fosse riuscita Adelina Marcò, così bella, così gentile, quello sarebbe stato un piacere grande per tutte, ma ella non avrebbe accettato. Doveva maritarsi un giorno o l'altro, era un'impiegata provvisoria di passaggio. Caterina Borrelli, svelta, intelligente, ma troppo vivace, troppo tumultuosa, faceva troppe satire contro i superiori, non l'avrebbero mai nominata. Pasqualina Morra, la poetessa. Troppo giovane, molle, floscia, senza energia, senza prestigio. Signorine, signorine, un po' di silenzio. Erano le 8:15. Questa ultima ora, dalle 8 alle 9, sembrava di una lunghezza interminabile. Quelle che avevano chiesto il permesso erano prese da una esasperazione nervosa. Il direttore non veniva, no, e avrebbero dovuto agonizzare sino alle 9. «Oh, direttrice, quando viene il direttore?» esclamò con accento desolato la Borrelli. «Eccolo qua, vuole qualcosa?» le chiese una voce alle spalle. La Borrelli, malgrado la sua improntitudine, rimase interdetta. Il direttore si arricciava il mustacchio, come aspettando, guardandola freddamente, con la dominazione tranquilla degli uomini che non subiscono la femminilità. «Oh, nulla, grazie», mormorò stupidamente la Borrelli. Il direttore, come al solito, girava attorno ai tavolini con una lentezza che faceva fremere di impazienza quelle che volevano andar via prima. Leggeva i registri a lungo come se li studiasse, leggeva l'ora di tutti i telegrammi fermi per la chiusura festiva degli uffici. Marcò, Borrelli, Giuliano, Pescara e le altre guardavano supplichevolmente la direttrice, quasi la implorassero di alzarsi dal suo posto, di raggiungere il direttore, di chiedergli quel benedetto permesso. Erano le 8:30. La direttrice non capiva o fingeva di non capire e la sapeva di non dover interrompere il direttore nel suo controllo. Quei minuti che passavano sembravano eterni. Ad un momento disperarono. Il direttore aveva preso un telegramma di transito alla linea di Terracina e se n'era andato verso la porta tamburo della sezione maschile. «Se ne va e non abbiamo il permesso!» Era un falso allarme. Egli ritornò subito e questa volta andò direttamente alla scrivania della direttrice. Le parlava sottovoce, senza gestire, ma con una forza e un'intensità che trapelavano. E la ascoltava tutta intenta, con gli occhi abbassati, una mano bianchissima allungata sulla scrivania, l'altra che le reggeva la guancia. Ogni tanto le palpebre le battevano come se approvasse, ella non rispondeva però, ed egli seguitava a discorrere energicamente senza alzare la voce. Le ragazze che avevano chiesto il permesso fremevano, come se quell'ultimo quarto d'ora rappresentasse la loro salvazione. Ogni volta che la direttrice apriva la bocca trasalivano, ma ella diceva 2 e 3 parole come se fosse un'obiezione che il direttore subito ribatteva ricominciando la sua perorazione. Alle 8:50 Caterina Borrelli, non potendone più, disse sottovoce: «Al diavolo, Galvani, Volta, la bottiglia di Leida, la pila di Daniel, il solfato di rame e la emancipazione della donna». «Aquila, dalla buonanotte», disse Adelina Marcò forte. «Rispondetegli subito che va male il suo orologio, che mancano 10 minuti alle 9, che per sua regola non si permetta più di dare la buonanotte, che l'aspetti da Napoli», ribatté il direttore. 8:55. Addosso a tutte quelle fanciulle era piombata la grande stanchezza finale, l'aridità di 7 ore passate in ufficio a compiere un lavoro scarso e ingrato. Stavano immote, senza aver più neanche la forza di levarsi su per andarsene. Avevano intensamente desiderata quell'ora delle 9, si erano consumate in quel desiderio e adesso esaurite, senza vibrazioni nervose, stracche morte dall'aspettazione, dall'ozio e dalle chiacchiere vane, non desideravano più niente. Quelle che dovevano ritirarsi a casa pensavano alla cena e al letto, con un bisogno tutto animale di mangiare un boccone e di sdraiarsi. Quelle che dovevano andare al teatro a ballare, rifinite, esauste, spezzate in tutte le giunture, non avevano più nessuna vanità, non provavano più nessuno stimolo. «Io resto qui sino a mezzanotte», borbottò Borrelli ad Annina Pescara. «E perché? Per gusto? Napoli, Chiaia, dà la buonanotte. Mancano 3 minuti alle 9, aspetti», rispose il direttore con una grande severità questa volta. Finalmente la voce liquida della direttrice. «Ore 21, signorine, date pure la consegna. Le telegrafiste sfilarono a una senza fretta, salutando solo la direttrice, poiché il direttore non voleva essere salutato. Nell'anticamera, rischiarata da una vacillante fiammella di gas, innanzi agli armadietti aperti, esse si infilavano i paltoncini, si avvolgevano al collo le sciarpe, mute, il viso concentrato e chiuso nell'indifferenza, in un abbrutimento dello spirito. Olimpia Faraone, innanzi allo specchio di mezzo, con certi colpi di piumino, si metteva della cipria nei capelli biondi, e le altre non la invidiavano. La guardavano un po' meravigliate, che avesse ancora voglia di acconciarsi, ma alla sua civetteria tutta Languori si compiaceva di quello stato di abbattimento. Adelina Marcò aveva portato un corpetto di velluto nero per indossarlo alla fine del servizio, ma ora il desiderio le era passato e, tolte da un bicchier d'acqua due camelie bianche, se le aggiustava sul petto, nella ricca cravatta di merletto, e tutta la bella persona, dalle dita molli e fiacche, che non giungevano a conficcare uno spillo al leggiadro collo biondo e flessuoso, indicava una stanchezza infinita. Esse uscivano di là, salutandosi fiocamente, senza baciarsi, come istupidite, con la faccia rilasciata nella fatica. Fuori le madri, i padri, i fratelli le aspettavano per ricondurle a casa. «Che è?» chiedeva alla madre di Giulietta Sorano alla figliuola. «Niente, mamma. Ti senti male?» «No, sono stanca». Maria Vitale se ne andava, col padre, tutta incappucciata nella mantiglia che le aveva prestata Clemenza Ashard. Maria Vitale piegava la testa sotto il peso plumbeo del raffreddore e respirava profondamente per vincere l'oppressione del petto. Le ausiliarie si allontanavano per le vie della posta di Monte Oliveto, di Strada Nuova a Monte Oliveto, di Trinità Maggiore, strette nei paltoncini, ombre dileguantesi nell'ombra, un po' curve, come se un'improvvisa vecchiezza le avesse colpite.